Un divago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte con la collaborazione di Daniela Terrile e Pietro Pedone. Alla console Alessandro Gianotti, produzione del Club del Libro di Bruxelles e Poesia Totale Torino. Info ondivago.blogspot.com, email ondivagoradio@gmail.com. La undicesima puntata di Ondivago su Radio Alma Bruxelles parte dalla figura di Napoleone. Ne parliamo con Marco Gallo, studioso di scienze strategiche e della figura di questo personaggio. Una chiacchierata ad altri tempi in una caffetteria sabauda. Napoleone pare una figura molto lontana in realtà nel tempo, però probabilmente ha influenzato e influenza ancora la nostra vita. Forse ha fatto delle scelte che hanno modificato l'amministrazione piuttosto che la percezione dei trasporti. Ad esempio parlavamo sto con Marco, ad esempio il catasto, le case, ad esempio io ricordo la casa di mio nonno, appunto il catasto napoleonico registrata, e quindi ci sono varie implicazioni su questa figura. Tu pensi che effettivamente ci sia un rapporto fra Napoleone e la nostra vita di oggi, nelle cose anche materiali più stupide? Sì, sicuramente Napoleone e per l'epoca in cui è vissuto è un modernista. Per i suoi interessi personali e per dei tratti caratteristici della sua persona non poté non essere quello che è diventato. Dal progettare ad attuare una cosa faceva passare pochissimo tempo. Questo ha permesso l'attuazione in un breve periodo storico, non solo nel suo campo di applicazione, che era quello militare per la maggior parte delle cose, ma anche poi nel civile, nell'amministrazione delle cose civili, ha influito sicuramente la sua caratteristica, che è quella della progettazione e attuazione, deve passare pochissimo tempo. Ci lascia Napoleone il codice Napoleone che tutti conoscono, in Francia è ancora vigente in parte, ci lascia appunto anche a livello ancora nel settore militare, influisce l'idea napoleonica. Le moderne riorganizzazioni militari, soprattutto quelle che per esempio hanno compiuto gli Stati Uniti negli anni 80 e 90, prendono ancora forma da un'idea di base che è quella napoleonica. E Napoleone stesso, che sarebbe questa idea in breve? Di comporre, costruire piccoli eserciti snelli che si possono muovere verso eventuali zone di guerra in breve tempo. In breve tempo perché sono snelle, non hanno dei grandi effettivi da muovere e delle grandi strutture, e poi sono strategicamente posizionati perché possono essere sull'eventuale campo di battaglia, insomma, quindi nella zona di guerra, nella zona favorisce strategica. Una forma di guerra lampo, qualcosa del genere. Esatto, quello quindi che aumenta la rapidità. Quelli che oggi si chiamano task force, Napoleone aveva già creato delle specie di task force, forse per motivi casuali anche casualmente, ma poi ne vide l'efficacia nei vari teatri di guerra. Quello che sarebbe interessante capire, proprio perché c'è anche nell'educazione, anche a scuola, io stesso mi riferisco alle mie esperienze, non c'è una stretta connessione fra la storia, la strategia militare e poi anche la vita quotidiana, nel senso che c'è uno studioso che si chiama, di cui parlavamo una volta scorsa, che si chiama Paul Virilio, il quale mette in rapporto la storia alla velocità, quindi agli spostamenti, e lo connette anche alle comunicazioni e alla nostra vita quotidiana. Secondo questa teoria, la velocità nella storia andrebbe aumentando sino a diventare istantaneità oggi con internet. Un apporto fondamentale arriva proprio dalla strategia, e quindi tu mi dicevi Napoleone non perdeva tempo, e non perdeva tempo in che modo? Napoleone vive in un'era in cui c'è molta staticità, il suo governo, la sua la sua stella rifulge nell'epoca post-rivoluzionaria, un periodo di confusione, e Napoleone riesce a riorganizzare il tutto in modo veloce, perché è la sua persona, è grande matematico, perciò un pensiero anche schematico delle cose, non dispersivo in un certo senso, forse anche, non so, ci raccontavamo dell'assalto del forte di Bath la volta scorsa, e forse anche creativo in questo, sì, trovare la giusta misura delle cose per le sue necessità. Uh-huh. è il modo più veloce per ovviare ad eventuali ostacoli e condizioni. Sì, questa cosa del forte di Bard, dove lui si trova fermo perché scende nelle pianure piemontesi, deve scendere nelle pianure piemontesi il più in fretta possibile per far sì che gli austriaci, in quel caso nella seconda campagna d'Italia, far sì che gli austriaci non si posizionino prima di quello che lui vorrebbe, o non si possano posizionare bene, lui deve anticiparli. E l'unico suo ostacolo alla discesa dal Moncenisio alle pianure piemontesi è questo forte di Bard, che è messo in una posizione strategica per cui potrebbe avere dei grossi problemi proprio per motivi di tempo. Bloccava il suo progetto. Il progetto era che in tot giorni, in tot tempo, doveva realizzare questo suo progetto. Allora fa una cosa che normalmente non veniva fatta nell'epoca militare, soprattutto in quell'occasione, ma anche in altre occasioni dove vi era meno necessità, muove le truppe di notte, quando invece nell'epoca di Napoleone si usava ancora, per esempio, non combattere d'inverno, mantenere i quartieri invernali fino alla primavera inoltrata, e non assolutamente muovere le truppe di notte. Quello che Napoleone farà spesso e volentieri da un certo punto in poi è sorprendere il nemico. La mobilità di Napoleone è quella, in realtà ha cambiato poche cose, è intervenuto su pochi elementi, ma che allora per motivi per motivi statici, dovuti a una mentalità statica delle monarchie da allora, non avveniva sui campi di battaglia. E poi quello che sarebbe interessante forse capire da uno studioso, comunque da un appassionato di una figura come Napoleone, è forse quello che gli altri non percepiscono leggendo, cioè la figura di Napoleone come persona, umanamente, è la figura di una persona, dicevamo, complessa. È una persona oscura, una persona che contiene delle particolarità che forse tu hai colto e altri forse per motivi anche umani colgono meno. Come descriveresti Napoleone uomo, ecco? Napoleone uomo probabilmente nel suo profondo intimo, secondo me, soffre di una specie di piccola mania di inferiorità, che però svilupperà in lui questo senso di leggera inferiorità verso gli altri, una grande energia, e verso la vita diventerà molto aggressivo, non tanto verso gli altri quanto verso la vita diventerà molto aggressivo, ed è forse questa cosa alimenta quel tratto caratteristico decisionista che è in lui, per combattere questo senso dentro di lui, per la sua infanzia non disastrata, però difficile, che vivrà nel collegio militare, che probabilmente lo segna in questo senso caratteristico. Era deriso dagli altri, e questa cosa lo come altre cose lo fa chiudere in se stesso. L'introversione però gli dà la voglia, la grande energia di fare, cioè magari non ha avuto la possibilità di esprimersi fino a una certa età per tutto il tempo, e questo gli darà poi un la maggiore, no? Sarà più forte l'energia a livello aggressivo, e questo sarà positivo per Napoleone. Poi grande come tanti altre figure di leader, grande carisma, mi dicevi sulle truppe che erano alla guardia napoleonica. Questo carisma è quasi mistico, perché in effetti leggendo la storia napoleonica, leggendo gli episodi anche, sono, è chiaro che alcuni sono un po' artefatti, no? Sono costruite d'arte, ma comunque, anche togliendo l'enfasi di chi scrive appassionatamente di lui, se ne scorge vividamente la grande carica carismatica che ha avuto dall'inizio, anche quando e soprattutto non era uomo di potere o uomo di grandi poteri, quando era sì ufficiale di artiglieria o solo tra virgolette generale e mezzi generali, perché l'epoca post rivoluzionaria lascia tanti generali in questo esercito di sbandati, e il suo tratto è uno dei suoi tratti caratteristici, è questo suo carisma quasi naturale che c'è in lui, di un culto anche l'uso delle esatto questa grande capacità comunicativa, decorazione e di uso, infatti lo si nota soprattutto all'apice del suo potere nel 1805, la battaglia di Austerlitz, la più grande battaglia, la battaglia perfetta tra quelle di Napoleone, dove lui alla fine della battaglia trasmise i bollettini ufficiali che devono essere portati a Parigi per la stampa, che cambiò più di 30 volte il testo dei bollettini ufficiali perché fosse perfetto come comunicazione, perché fosse perfetto il resoconto della battaglia secondo il suo modo di vedere, e quello che avrebbe insomma letto il popolo fosse grandioso, cioè più di 30 volte nell'arco di pochissimo tempo cambiò il testo dei comunicati da trasmettere alla stampa parigina, alla stampa francese, vabbè. E questo la dice lunga anche sulla sua capacità nell'attenzione della comunicazione, a quanto fosse importante, a quanto avesse percepito l'importanza della comunicazione per la società civile in particolare. Questo già Napoleone imperatore, ma comunque. E poi adesso il discorso chiaramente è amplissimo, perché il contributo poi di questa figura in tutti i campi è enorme, ma quello che era interessante era dare alcuni lineamenti da qualcuno che lo conosce anche per studi o per passione sua personale. E ci si interroga spesso sulla fine di Napoleone, anche perché è vero che c'è una figura così grandiosa, e spesso ci si sofferma sulla sua fine, quindi si rivede anche tutta la sua esperienza, come la fine di un romanzo, insomma, fa pensare al significato di tutte le vicende precedenti. Ecco, che significato ha per te, insomma, i suoi ultimi giorni, comunque, o come pensi che lui abbia vissuto questo, la fine, insomma, della sua vita da leone, insomma, per quanto è durato. Tu mi dicevi circa, comunque, considerato anche il periodo antecedente l'impero, mi dicevi più o meno 20 anni di vita intensa. Che intensa sarebbe per qualsiasi essere umano, 20 anni comunque non sono da un lato pochi e dall'altro tanti, insomma, comunque è un periodo in cui si può condizionare comunque molto la storia. Sicuramente soprattutto per Napoleone, non so quanto per gli altri, ma anche per i suoi appassionati la fine di Napoleone è ingloriosa. Napoleone era un decisionista, una persona che comunque, vista oggi, si potrebbe dire piena di energia, che fa molte cose durante un giorno. Napoleone sicuramente ritiene il suo esilio di Sant'Elena, l'ultimo esilio glorioso, perché non aveva potuto portare a termine i suoi progetti, e si lamentò anche con se stesso più che altro di non aver dedicato più tempo ai problemi dell'amministrazione civile delle cose. Forse si pentì in un certo qual senso di avere dato troppo tempo della sua vita alle guerre. Che avrebbe voluto essere forse più statista e meno... Ecco, si rese conto che mancava in lui, mancava alla sua vita quella parte del politico, quella parte che comunque lui avrebbe poi, secondo lui, secondo la sua idea, una volta, diciamo, ottenuto, non dico soggettato i paesi, ma ottenuto quello che voleva a livello militare, sarebbe poi dedicato completamente alla riorganizzazione non solo della Francia, secondo le sue idee, ma quella dell'Europa. C'è questa parte di Napoleone europeista, ante litteram, e questo è uno dei suoi rimpianti, a Sant'Elena, di non aver potuto dare più spazio all'amministrazione civile delle cose. Ok. Va bene, grazie Marco, ti invitiamo poi eventualmente a vedere il tuo blog, sperando che tu ci scrivi qualcosa dentro, che si chiama Marco Gallo Caie con l'h.blogspot.com. andate a leggerlo, così lui sarà anche costretto a scrivere altre cose su Napoleone. Grazie a te, ciao. Il gatto con gli stivali. Nulla di più adatto come storia, in cui un gatto porta il suo padrone dalla povertà alla corte regale. L'astuzia, anche di una persona sola, può portare lontano. E la vicenda di Napoleone ci pare così non distante da questa, che possiamo ascoltare dal racconto originale di Perrault. L'astuzia, il potere, l'imprevisto. Le maître chat ou le chat botté. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault. Le maître chat ou le chat botté. Conte. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne se désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entre dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il alla se cacher dans un bled, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque deux perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi comme il avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois de porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force « au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat, s'approchant du carrosse, dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et, ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, » dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, » répondit le marquis, « c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces bleds appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les bleds qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, et demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. « Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. « Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté, soit la bienvenue dans ce château de Monsieur le Marquis de Carabas !»« Comment, Monsieur le Marquis ? » s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît !» Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de Monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi. Et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité : quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité, si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, ne sont pas des moyens toujours indifférents. Fin du Maître Chat ou du Chat Botté. Cet enregistrement appartient au domaine public. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo su www.ondivago.blogspot.com e su Facebook. Che il gatto con gli stivali sia con voi!